Siamo fatti di plastica, tu ed io, la tua mano immobile come la mia, uno strato di cera sul volto di Maria. Una lacrima di trucco come la mia, una luce dal basso sul viso. Si apre il sipario di pubblico, è andato via. Siamo fatti di plastica, tu ed io, il vestito nero di stoffa. E come il mio, il monologo d'inizio è muto e così sia. Mani mie, la strofa c'è dalle gambe.